Questo brano era Retribution dei Behind Enemy Lines, che è una band statunitense, ma noi stiamo utilizzando questo brano ormai da un bel po' di anni come sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardis Magnetics, che ogni giovedì in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30. Radio Onde Furlane con sede a Udine e stiamo trasmettendo sui 90 MHz. Ora andiamo invece all'ascolto di questo album, uno split 12 pollici uscito negli Stati Uniti nel 1982, che diciamo fece insomma diede una svolta musicale a quello che era il panorama underground del punk fino agli anni 70. Queste le due band di questo split, Void e Fate, ed era uscito, credo forse addirittura la prima uscita discografica per la Discord Records, e comunque noi ci ascoltiamo un paio di brani dei Void. We'll be right back. E rimaniamo sempre all'ascolto di questi Void, band statunitense che diedero vita, cioè fecero questo split 12 pollici assieme ai Fate, band di Washington, e ci ascoltiamo ancora questo brano. Sì, un saluto a tutte e a tutti anche da parte mia. Prima di entrare nel merito delle questioni di cui parleremo stasera, ci tenevo a salutare in maniera speciale i detenuti del carcere di Via Spalato di Udine, e questo perché, sperando che qualcuno sia all'ascolto, appunto perché durante il presidio dello scorso sabato 2 ottobre abbiamo dialogato con loro e anche abbiamo ricordato questo appuntamento radiofonico, e ne approfitto per dare anche, quindi proprio per dare a loro, ai speriamo detenuti in ascolto, gli estremi per scriverci: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, codice di deviamento postale 34121, Trieste. Scriveteci, e sempre così per iniziare diamo una buona notizia, finalmente una buona notizia, che è anche di buon auspicio per tutte e tutti. E allora, il 4 ottobre, lunedì, c'è stata un'udienza, insomma, di primo grado nel processo per l'operazione Prometeo, e da questa udienza sono usciti assolti i tre compagni e compagne incriminati, Beppe, Robert e Natasha. Allora, ricordiamo intanto che Natasha, Beppe e Robert sono stati arrestati il 21 maggio del 2019 nel contesto di quella che le forze repressive hanno definito Operazione Prometeo. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del ROS con l'accusa principale di attentato con finalità di terrorismo o di eversione. I tre compagni erano ritenuti responsabili dell'invio nel giugno del 2017 di tre pacchi bomba indirizzati ai pubblici ministeri Rinaudo, che è un pubblico ministero che si è reso famoso in parecchi processi contro il movimento antagonista e contro gli anarchici, e contro il PM Sparagna, che è quello del processo Scriptamanent, e a Santi Consolo, che all'epoca era direttore del DAP di Roma. Vabbè, i tre pacchi bomba vennero disinnescati, e in tutti i casi, insomma, c'era questa pesante accusa. Il sostituto procuratore genovese Federico Manotti aveva chiesto nella precedente udienza 18 anni e 4 mesi per Beppe e 17 anni per Robert e Natasha, quindi condanne pesanti, ed è arrivata invece questa assoluzione, tra l'altro per assolti per non aver commesso il fatto, con la formula dell'insufficienza di prove. Allora, Robert era già stato scarcerato nel dicembre 2019, e Natasha è stata, dopo 2 anni e mezzo di reclusione, lei era stata incarcerata in maggio di 2 anni e mezzo fa, e è stata scarcerata anche lei, mentre Beppe resta imprigionato a causa di un altro procedimento. E infatti Beppe è accusato di aver posizionato un ordigno incendiario contro un postamat presso un ufficio postale a Genova nel giugno del 2016, e per questa accusa è stato condannato a 5 anni di carcere e si trova ora alla Dozza. Quindi chiaramente si ribadisce la solidarietà a Beppe, e comunque questa soluzione è veramente una buona notizia per tutte e tutti. continuiamo a parlare di carcere, dando degli aggiornamenti sulla, su ciò che è successo a Modena, appunto la, la strage di detenuti da parte delle forze dell'ordine durante la rivolta del marzo 2020, aggiornamenti in quanto la procura riapre il caso sulle violenze dopo ulteriori esposti. E faccio prima un breve riepilogo. Praticamente nel marzo 2020, principalmente tra l'8 e il 9 marzo, in una trentina di carceri italiane scoppiano rivolte per chiedere rassicurazioni sulla gestione dell'emergenza Covid dietro le sbarre e anche per chiedere salute e tutela adeguate e anche per protestare contro il blocco dei colloqui con le persone care. Lo Stato risponde con manganelli e spari e il risultato sono 14 morti. Nel novembre 2020 5 detenuti raccontano ufficialmente quanto era avvenuto l'8 marzo e il 9 marzo tra le carceri di Modena e Ascoli Piceno. Questi detenuti raccontano le botte, la noncuranza delle guardie, dei medici, la morte di Salvatore Piscitelli. I 5 detenuti vengono trasferiti a titolo chiaramente intimidatorio nel carcere di Modena, vengono interrogati, poi vengono dispersi in 5 carceri differenti. Da quel giorno le autorità giudiziarie e penitenziarie continuano ad esercitare forti pressioni nei loro confronti. La solidarietà che intorno a loro si è creata dà fastidio perché smaschera quelle che sono le vere responsabilità dell'apparato statale sanitario. Mattia, uno dei 5 detenuti, compagno di cella di Sasha Piscitelli, è stato trasferito nel carcere di Ancona. E vabbè, queste sono notizie di qualche mese fa. Comunque, a fine gennaio era stato sottoposto a nuovo interrogatorio da parte della procura di Ancona e volevano che lui ritrattasse la sua versione promettendogli varie cose, insomma, cioè minacciandolo prima di denunciarlo per mancato soccorso. E quando insomma evidentemente la responsabilità del mancato soccorso era delle guardie e non del compagno di cella, e bloccandogli la posta, i soldi, i pacchi eccetera, vietandogli le cure mediche di cui aveva necessità, ma anche poi in un secondo momento adottando un'altra strategia, promettendogli lavori, roba, insomma. Però questo detenuto Mattia non accetta mai di abbassare la testa e ritrattare. Allora vediamo. Da questo articolo dell'Espresso dello scorso 26 settembre vediamo quali sono le novità. La procura riapre il caso sulle violenze dopo la rivolta di Sant'Anna, al Sant'Anna, carcere di Modena, e la morte di 9 reclusi in quell'istituto. L'Espresso è in grado di confermare l'esistenza di documenti che fanno riferimento alle immagini del circuito interno. La cortina fumogena piombata sulle rivolte del carcere di Modena si sta diradando e dietro alla cappa i presunti pestaggi, le brutalità e le omissioni su visite e trasferimenti assumono fattezze più nitide, tanto da farsi esposto e da indurre la procura ad aprire un nuovo fascicolo con l'ipotesi di tortura e lesioni aggravate. È lo scossone che riapre il caso del Sant'Anna dopo le rivolte che hanno condotto alla morte di 9 detenuti. Overdose da medicinali per tutti, secondo l'ordinanza con cui il GIP Andrea Salvatore Romito ha disposto l'archiviazione del fascicolo riguardante 8 dei 9 morti. Il caso di Salvatore Piscitelli, morto nel carcere di Ascoli dopo il trasferimento da Modena, resta invece aperto. Fondamentali in tal caso le denunce dei 5 reclusi di cui appunto parlavo prima, testimoni di violenti pestaggi che dicono commessi dagli agenti. Ora, questi racconti di queste 5 persone se ne aggiungono altri che riaccendono i dubbi sulla frettolosa archiviazione. Un recluso riferisce di cordoni di agenti intenti a picchiare indiscriminatamente chi si consegnava durante la rivolta, tanto da ammazzare un compagno, poi trascinato come un animale. E vediamo qual è la testimonianza di questo detenuto. Quando sono uscito vedevo davanti a me una fila a destra e una a sinistra di agenti della penitenziaria. Sono uscito tenendo le mani in alto e dicendo che non avevo fatto nulla. Nonostante ciò, alcuni agenti mi bloccavano, mi ammanettavano e mi misero a testa in giù. Venivo poi portato in sorveglianza, dove venivo sdraiato per terra e picchiato violentemente con calci e pugni, anche con l'uso del manganello. Provavo a dire che non avevo fatto nulla, ma proprio per averlo detto mi buttavano nuovamente a terra e mi picchiavano ancora. Poi è il turno di un recluso tunisino, ammanettato e picchiato. Dopo le botte non risponde più. Ho capito che era morto, ci dice questo testimone. Tornati gli agenti, richiamavano la loro attenzione urlando e questi vedevano il ragazzo a terra e cominciavano a prenderlo a botte per svegliarlo. Lo prendevano come un animale e lo trascinavano fuori. Al momento sono in corso le verifiche per l'eventuale riconoscimento. Intanto il referto medico sul testimone dice distacco osseo, fratture e lussazioni nelle aree del braccio, dell'avambraccio e della mano sinistra e un'operazione al polso. Che riferisce il legale Luca Sebastiani, rischia di non poter recuperare nella sua piena funzionalità per il resto della vita. A fronte del nuovo esposto, la procura ha aperto un'indagine contro ignoti, ipotizzando il reato di tortura. È chiaro che ancor più dopo le immagini di Santa Maria Capua Vetere ci aspettiamo massima attenzione su questa vicenda, commenta il legale, ma a differenza del carcere campano, a Modena non sono emerse immagini del circuito di videosorveglianza che a più riprese si è detto non in funzione durante la rivolta. Il giornale L'Espresso è però in grado di dimostrare l'esistenza di documentazione in cui si fa esplicito riferimento alla presenza di filmati delle videocamere interne. In un'informativa del 21 luglio 2020, il comandante di reparto dirigente aggiunto della Polizia Penitenziaria, MP, rimette alla Procura di Modena una nota preliminare riassuntiva dei risultati investigativi sino ad allora espletati sui reati commessi dai detenuti, in aggiunta ad allegati su supporto DVD, affermando inoltre che sarà possibile perfezionare l'informativa una volta completata la delegata analisi dei filmati del circuito di videosorveglianza interno. A questo si aggiunge il rimando presente nella richiesta di archiviazione, dove nel ricostruire la morte di Arthur Yuzu si afferma che dei soccorsi prestati vi è traccia in una annotazione in cui vengono descritti gli esiti della visione dei diversi filmati relativi alla rivolta, acquisiti nell'immediatezza dei fatti. Interpellata dall'Espresso sul punto, la Procura di Modena, guidata dal neo insediato Luca Masini, non ha fornito risposta. Non ha dissipato così i dubbi sull'esistenza di frame che possano sgombrare il campo dagli interrogativi. Come per la morte dello stesso Arthur Yuzu e di Adidi Gazi, per i quali, secondo il perito del garante dei detenuti Cristina Cattaneo, la causa di morte non è nota, dalla procura si ipotizza il decesso per assunzione incongrua di farmaci, ma i dubbi, dice Cattaneo, non possono essere fugati in assenza di autopsia completa, nei due casi non compiuta. Per entrambi c'è il nodo della presenza di traumi evidenti, l'avulsione di due denti per Adidi con sangue nelle cavità orali e nasali che porta Cattaneo a dare per assodato un recente trauma contusivo al volto che non consente di escludere una commozione cerebrale o un'emorragia mortale. Per Yuzu, escoriazioni e lacerazioni sul volto che lasciano dubbi su una successione tale di colpi da produrre lesioni cerebrali che possono evolvere verso il peggio. Se autoprodotte o eteroprodotte non è dato sapere. Vabbè, ma potrebbe esserlo con i filmati, potenzialmente in grado di chiarire quanto accaduto nelle pieghe della giornata di Modena anche sul capitolo trasferimenti. Dei 546 detenuti, ben 417 saranno trasferiti e 4 moriranno durante o dopo il viaggio, senza riscontri documentali sulle visite mediche e i nulla osta sanitari imposti dalla legge per gli spostamenti. Il sospetto è che non fossero in condizioni di sostenerli e che le visite non siano state espletate, come sostenuto più volte dai reclusi. Da ultimo, dall'ex detenuto CR, autore di una testimonianza messa a verbale dal legale del garante dei detenuti, Giampaolo Roncisvalle, che smentisce anche la tesi dell'idoneità fisica dei reclusi a sostenere il viaggio in virtù della breve durata sottoscritta dalla procura. Prima della partenza, riferisce, i detenuti sarebbero stati lasciati ammanettati a terra dalle 14 a mezzanotte, senza mangiare né bere, per poi essere tradotti sui pullman. Durante il tragitto, Rowan Abdella accusa ripetuti mancamenti. Ho chiesto più volte l'intervento dell'ispettore capo, scorta, perché il ragazzo per me non stava bene, dice il testimone. Mi veniva risposto che al nostro arrivo ad Alessandria avrebbero preso provvedimenti. Ad Alessandria arriveranno in tarda notte. Rowan Abdella, morto. L'odissea del testimone, invece, terminerà solo intorno alle 11 del mattino seguente, quindi diverse ore dopo la partenza, quando gli si consentirà un panino ad Aosta dopo oltre 20 ore a digiuno. Non va meglio ai 5 firmatari dell'esposto sui piscitelli. Consegnatisi agli agenti, raccontano di essere stati ammanettati, privati delle scarpe e degli indumenti, particolare che si ritrova anche nelle ricostruzioni sui trasferimenti dei detenuti a Parma, giunti senza vestiti per ammissione della procura, caricati sui furgoni e picchiati. Piscitelli arriverà ad Ascoli in condizioni critiche, lamenterà dolori durante la notte. Alle richieste di aiuto lanciate dal Concellino, Mattia Palloni, tra i firmatari dell'esposto, un agente risponde: lasciatelo morire, e Piscitelli morirà qualche decina di minuti dopo. Elisa Palloni, sorella di Mattia, rivela all'Espresso le pressioni che il fratello avrebbe poi subito per ritirare l'esposto. A Mattia la procura di Ascoli ha chiesto di ritirare l'esposto, gli hanno offerto un lavoro in istituto, ma lui ha rifiutato. Altri particolari su quegli istanti emergono ancora dal reclamo che un altro detenuto, CC, ha inviato alla ministra della giustizia Marta Cartabia. A Modena, scrive questo testimone, molti detenuti furono violentemente caricati e colpiti al volto con manganellate, usando anche i tondini di ferro pieno che si usano per effettuare la battitura, cioè che le guardie usano per effettuare la battitura nelle celle. Ad Ascoli invece, la mattina seguente, salì una squadretta in reparto composta da circa 10 agenti, alcuni con casco, scudo e manganello, e cella dopo cella ci picchiarono tutti. Fu una vera e propria spedizione punitiva. Anche su questo indagheranno le commissioni ispettive istituite dal DAP su impulso della ministra Cartabia, ma su Modena sorgono già i primi problemi. Del pool fa parte anche Marco Bonfiglioli, dirigente del provveditorato che ha coordinato le operazioni di trasferimento dei detenuti durante la rivolta e che dunque sarebbe chiamato a indagare su se stesso. Intanto tra i reclusi c'è chi ancora denuncia trattamenti di sfavore. Lo racconta Anna Maria Cipriani, madre di Claudio, tra i firmatari dell'esposto di Ascoli. Da mesi si batte per vedersi restituita la verità sulle rivolte. Chiede di visionare i filmati di Ascoli, dove nessuno ha smentito l'esistenza di circuiti regolarmente in funzione. E riferisce quanto accaduto al figlio dopo l'esposto. Claudio è stato messo in cella con finestre rotte, acqua sporca e senza coperte. Con la reclusione ha dovuto anche abbandonare l'università. Ha risposto a 3 interpelli pur di continuare a studiare, sempre rifiutati. Non gli garantiscono alcun diritto, ma lui ringrazia Dio anzitutto di essere ancora vive. Vabbè, l'articolo era un po' lungo, però meritava riprendere il discorso su Modena, al di là di quello che possiamo pensare così dei mezzi, diciamo, legali di affrontare la questione. È molto importante che dopo i primi 5 detenuti che hanno prodotto l'esposto, anche altri prigionieri abbiano preso il coraggio di denunciare ciò che è successo. E insomma, sono cose importanti che vale la pena far conoscere. We'll be right back. intanto continuiamo ad ascoltare i Resist, scusate per il vuoto di silenzio, ma fa parte ovviamente della diretta qui radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, e rimaniamo comunque all'ascolto di questa band, come ho detto prima, statunitense, e da questa loro compilation, diciamo più che compilation, discografia dei primi anni 90. Apri, stiamo a morire. Chi si è ammazzato? Faccelo vedere, morto. Ma chi è? Apri lo spioncino, guardia. Lo spioncino è l'elemento più importante della cella. Quando è chiusa, anche la porta blindata. Lo spioncino è il punto di collegamento tra la cella e il corridoio, dove si raccolgono i suoni e le parole provenienti dalle altre celle. Nel corridoio, anche se deserto, si compie la microsocialità della comunità prigioniera. Lo spioncino è il legame con l'oltrecella, con i compagni di detenzione. Nel gergo carcerario, tenere lo spioncino aperto definisce il comportamento del prigioniero, che non dorme e non aspetta che il carcere passi, ma gli va incontro. Il prigioniero sveglio e attento a tutto quello che succede, spesso in grado di prevenire gli eventi, sa ascoltare la voce del carcere, quella che non usa le parole, una rissa che sta per scoppiare, le guardie che arrivano in gruppo per un pestaggio o per un trasferimento improvviso, oppure per una perquisita non prevista. Sta attento ai leggeri rumori del carcere, perfino ai sussurri, e scopre che ogni avvenimento è preceduto da una particolare alternanza di silenzi e rumori. Il detenuto attento cerca di decifrare quel linguaggio. Se il consueto brusio nel corridoio cessa improvvisamente, si fa silenzio totale, Vuol dire che sta per succedere qualcosa di brutto, arriva la squadretta. Oppure qualcuno verrà portato alle celle di isolamento. L'attenzione ai rumori è ancor più importante quando il detenuto è rinchiuso in cella di isolamento. Tenere lo spiancino aperto denota la volontà di mantenere un rapporto con chi c'è nelle altre celle. Può sempre arrivare una chiamata, un bisbiglio, una comunicazione. Tenere lo spiancino chiuso, al contrario, è un brutto segno, descrive lo stato d'animo del detenuto o dei detenuti di quella cella, ripiegati verso la solitudine, la disperazione, l'umore nero, il rifiuto di quel poco di altri che c'è in carcere. Stare con lo spioncino chiuso è come dire che si è smesso di lottare, di protestare, di ingegnarsi per evadere, insomma che ci si sta facendo la galera passivamente, ci si è arresi. Un saluto a tutte e tutti voi che siete in ascolto alle 20:42 di oggi, che siamo giovedì 7 ottobre 2021, in diretta con Zardins Magnetics. Ben ritrovate, ben ritrovati. In particolare, di nuovo ripeto, un saluto a chi è privato della libertà e in particolare ai detenuti di Via Spalato, il carcere di Udine, che, come si diceva prima, con i quali, come si diceva prima, abbiamo avuto il piacere di dialogare per un paio d'ore sabato scorso. Questa sera io vorrei insieme a voi prendere a pretesto un libretto che era uscito un paio d'anni fa e a pretesto per parlare ancora di carcere, in questo spazio settimanale che abbiamo. E il libretto di cui vi voglio parlare è stato scritto appunto nel 2019 da Salvatore Ricciardi e il titolo è Esclusi dal consorzio sociale, parole e azioni delle persone imprigionate. È un'autoproduzione, reperite su internet, in quanto appunto aveva scelto così il suo autore, che è Salvatore Ricciardi, appunto, che ci ha lasciato purtroppo nell'aprile 2020 all'età di 79 anni per dei malanni successivi a una brutta caduta, insomma uno stupido incidente, eccetera, durante il primo lockdown. E Salvatore Ricciardi, militante prigioniero delle Brigate Rosse, quindi si è fatto i suoi 20 anni e passa di carcere speciale, una condanna all'ergastolo, in più ha avuto anche delle condanne in quanto protagonista della rivolta del carcere di Trani, all'inizio del 1981, che fu una rivolta memorabile, ma che appunto ascoltavo una presentazione di un po' di anni fa di un altro suo libro, e si diceva appunto che per quella rivolta lì lui aveva avuto delle condanne più pesanti addirittura delle condanne per partecipazione a azioni armate, insomma, con le Brigate Rosse. Quindi era come il discorso di quella rivolta importante, appunto, successa nel carcere speciale di Trani, con cui lo Stato aveva voluto appunto vendicarsi caricando di brutto, insomma, gli anni di galera ai protagonisti di quella importante, cioè rivolta proprio con quale i prigionieri avevano preso possesso di quel carcere. E Salvatore Ricciardi, che teneva settimanalmente tra l'altro un programma su Radio Onda Rossa sul carcere che si chiamava La Conta. La Conta è il momento del mattino, insomma, in cui le guardie passano a controllare. È la prima volta, insomma, del giorno in cui le guardie controllano che sia presente il detenuto in cella. Perché ho scelto questa lettura qui stasera, che appunto vorrei insieme così leggere qua e là insieme a voi, è perché è il racconto di come nasce una un racconto collettivo di come nasce la protesta, una protesta molto base, diciamo, una fermata all'aria, cioè come viene organizzata il momento in cui appunto le guardie richiamano dal cortile alle celle i prigionieri e i prigionieri collettivamente decidono di fermarsi nel cortile, di non rientrare e di rimanere impassibili alle minacce delle guardie finché non verrà aperto, diciamo, un canale di trattativa per raggiungere degli obiettivi minimi, perché ricordiamo che a differenza della rivolta del carcere di Trani, questo racconto qui è ambientato nell'oggi e quindi i protagonisti sono, cioè, cercheremo di vederlo nel prossimo intervento, comunque sono tutti detenuti, diciamo, cosiddetti comuni. Io a questo punto, che sono già un 6-7 minuti che parlo, manderei un brano musicale, se la regia mi assiste possiamo andare. Quindi ritorniamo in diretta con Jardins Magnetics. Si stava parlando appunto di questo racconto Esclusi dal Consorzio Sociale, scritto da Salvatore Ricciardi nel settembre 2019. Quindi io appunto dicevo che è il racconto di una protesta collettiva messa in piedi da alcuni prigionieri comuni, diciamo di un carcere così immaginario, sì, non ben specificato. E io andrei, insomma, le cose i concetti più che mi sono sembrati più le idee più importanti di questo racconto, insomma, sono come vengono descritte dall'interno le vite, le relazioni tra queste persone. È un racconto scritto da dentro, perché proprio l'autore si identifica in qualche maniera con ognuno, un po', qualcuno di più, qualcuno di meno. In ognuno di essi si vede una parte della sua lunga esperienza carceraria, e qualcuno è anche rappresentazione, insomma, di sé, insomma, del suo proprio percorso, anche se, cioè, un po' mediata, nel senso che anche il detenuto di lungo corso comunque è un signore di una certa età che però ha alle spalle una carriera, diciamo così, di rapinatore, insomma, di parecchi anni fa, di una realtà anche della malavita diversa da quella di oggi, ma che comunque è entrato in contatto anche con prigionieri politici degli anni, appunto, 80. E, diciamo, almeno questo è quello che pensiamo noi, avendo letto il libro, ecco. Quindi i personaggi principali sono insomma questi qui: sono Gigi o Luigi, che è un ragazzo, insomma, di 24 anni, tossico, che è scappato, fuggito dalla comunità e che è stato rinchiuso per questo, e che viene dai quartieri della periferia della metropoli. Poi c'è l'altro ragazzo, Nicolò, che sempre viene da quei quartieri, però ha un altro grado di, diciamo, di coscienza, è appunto Salvatore Ricciardi lo chiama compagno in senso lato, ha partecipato a proteste, diciamo, organizzate, eccetera, ed è dentro con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e con l'aggravante di terrorismo, no? E poi ci sono, appunto, questi detenuti di lungo corso, che è Marcello, appunto, che era in una batteria di rapinatori. Poi ci sono anche Sergio, ci sono Ciccio, che è, appunto, un po' così, quello che cucina, che appunto era un coatto, ma ha fatto un certo tipo di percorso insieme a questi vecchi qui. E, insomma, se avete la pazienza, adesso io vi leggo un pezzo di ascoltarmi, vi leggo un pezzo di discussione tra questi detenuti. Vedete, regà, interviene Sergio, non abbiamo il passato, condannato dalla sentenza, non abbiamo il futuro, oscurato dalla detenzione, e il presente è zero. Il problema della popolazione carcerata è quindi aggredire il presente, come ha fatto tempo fa, diventando un soggetto attivo. È proprio vero che la galera sta rieducando la società. Ride Niccolò. Fuori va molto di moda il presentismo, una corrente di pensiero di chi accetta passivamente il mondo così com'è, senza tentare di cambiarlo, arrendendosi al presente. Non ti pare una copia della galera? Lo si vede pure nella diffusione dei tatuaggi, delle scarpe slacciate, nella diffusione di alcune parole come devi importi agli altri, se non ci riesci sei un fallito, che i padri inculcano a figli e figlie. Niccolò continua ricordando le lettere dal carcere di Gramsci, dove ha trovato questo sul passato, sfoglia il suo quadernetto per leggere la citazione esatta. È vero che ora per me il passato ha una grande importanza, come unica cosa certa nella mia vita, a differenza del presente e dell'avvenire, che sono fuori della mia volontà e non mi appartengono. Belle parole, le lettere dal carcere di Gramsci, sono molto attente alla condizione della persona imprigionata, riprende Sergio. Il passato di Gramsci aveva un grande valore perché da comunista era apprezzato dalle classi sfruttate. Il nostro passato di detenuti comuni non è apprezzato da nessuno. Però qualche tempo fa sono successe in carcere delle cose che al tempo di Gramsci nessuno immaginava, e i rituali della giornata carcerata siamo riusciti a contrastarli, a cambiarli. Un lungo silenzio, riprende Sergio con toni più amari. Sono sempre più convinto che non aiuta i detenuti l'esortazione a lamentarsi fornita dai bravi cittadini. Così li scoraggiano, sarebbe meglio organizzare con loro proteste e lotte. I bravi cittadini si indignano per le condizioni vergognose del carcere, lo criticano, ma non lo mettono in discussione. Vogliono che il carcere rimanga come spartiacque tra il mondo del giusto e il mondo dell'errore. Lunga pausa di Sergio. L'esistenza del carcere è la verifica che i bravi cittadini vivono nel territorio del giusto e con questa spocchia osservano i cattivi rinchiusi nel carcere e criticano lo Stato per la brutalità con cui li tratta. Sono pur sempre esseri umani, enunciano, e ben chiusi in cella possono avere le tendine rosa alle finestre. Premono perché sia rispettato il diritto dei rinchiusi, proprio quel diritto che è sorto per tutelare il consistente patrimonio e lo stile di vita dei bravi cittadini, per mantenere e riprodurre l'appartenenza alla classe benestante con annessi privilegi che marca nettamente la separazione tra dentro e fuori. Si interrompe Sergio e nessuno se la sente di agganciarsi alle sue parole. La cella piomba nel silenzio e risalta la spettrale quiete di tutta la sezione e quel breve momento di calma che precede il trambusto della discesa all'aria della mattina. Le guardie sono al primo piano per condurre al passeggio i detenuti. Qui al secondo piano sono rimaste tre guardie nella rotonda tra le due sezioni. Si ferma Sergio aspettando qualche domanda. Gigi ha drizzato le orecchie, ha gli occhi sbarrati. Ciccio sta assorto con gli occhi chiusi e i pugni serrati. Nicolò prova a dire: ma allora, Sergio, le richieste che facciamo nei collettivi di pretendere il rispetto per i nostri diritti sono sbagliate. Vedi, Nicolò, il diritto non tollera aggettivi possessivi come mio o nostro, non come i bisogni o i desideri. Il diritto è un sistema coerente e organico di norme che si è informato con lo sviluppo delle società, che procedevano in una certa direzione, quella capitalista. L'ordinamento giuridico, ossia il diritto, è oggi la garanzia per il mantenimento e la riproduzione di quella società, di questa società secondo i suoi valori: la proprietà, il capitale, lo sfruttamento, l'individualismo, la disuguaglianza e la repressione. Un silenzio segna un'altra pausa, ma Sergio continua. È ovvio che se un padrone ruba sulla busta paga di chi lavora, cosa che succede spesso, è giusto che le lavoratrici e i lavoratori chiedano il rispetto di ciò che è stato stabilito dal contratto di lavoro o dalla legge. Questo sì che è un diritto del lavoratore, perché è stato contrattato, cioè accettato dalle parti, padroni e operai, che si presume siano su un piano di parità nel contrattare, e noi sappiamo che non è così. Vedi già, la partenza scivolosa e falsa. Allora l'attività sindacale, domanda Nicolò, basata sulla contrattazione, nasconde una non verità? Non sempre. La lotta di qualunque tipo è importante e va appoggiata, perché gli operai queste battaglie devono vincerle, altrimenti gli altri passaggi non avvengono. Sergio continua. Ritengo che sia una cazzata pensare che le sconfitte rendano chiara l'impossibilità di riformare il capitalismo e la necessità di abbatterlo. Le sconfitte scoraggiano. Lo vedi qui in carcere. Quello che volevo dire sulla contrattazione è che i diritti egualitari sono una falsità perché vengono annullati dalla rete dei poteri non egualitari, che poi è la realtà. Quella contrattazione che dicevo prima fotografa i rapporti di forza tra padroni e operai e segnala che non c'è nessuna parità tra i contraenti. Prima ancora dei filosofi, conclude Sergio, la classe operaia ha fatto chiarezza su queste falsità, trasformando le lotte di difesa in lotte d'attacco, ossia rivendicando quelle cose non previste né dalle leggi né dal contratto. Ad esempio, ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, oppure rallentare i ritmi fino a imporre un controllo operaio sulla produzione, impedire le produzioni nocive, prendere nelle proprie mani la decisione di produrre altre cose e in modo diverso. We'll be right back. di nuovo qui in diretta dagli studi di di Radio Onde Furlane per Zardins Magnetics. Stiamo così presentando un po', leggendo insieme da questo racconto di Salvatore Ricciardi, appunto racconto di una morte in carcere, della successiva, diciamo, presa di coscienza e protesta di alcuni detenuti. E voglio così ancora soffermarmi su un paio di cose, in particolare questo racconto è interessante anche perché si sofferma su molte dei rituali che ci sono dentro la galera, della vita dentro la galera e delle, diciamo, sfumature nelle relazioni tra i, anche a livello, diciamo, di comunicazione, di rituali anche comunicativi che ci sono tra i coincellini e tra anche i traumi che comporta essere rinchiusi dentro una prigione, a prescindere dai motivi per cui appunto un tribunale ti condanna e lo Stato ti, insomma, fa una sentenza che ti manda dentro la prigione. La prigione ha il compito di annientarti, quindi che tu sia per un motivo o per un altro ti trovi in quel posto lì, vieni ridotto a un soggetto, diciamo, infantilizzato, che non ha nessuna autonomia, deve compilare richieste per ogni domandine, anzi per ogni stupidaggine, deve sottoporsi ad anche il semplice, diciamo, dover aspettare continuamente l'arrivo del secondino che si occupa di una cosa o dell'altra, o doversi, diciamo, fare le varie pause, cioè le varie attese da un settore all'altro, da una struttura all'altra, che sono, cioè, sono così e basta, non è che ci sono alternative, cioè. Il carcere è questo, è un ingranaggio fatto per stritolarti e cancellarti, mettere al tuo posto un soggetto ubbidiente. Leggiamo insieme, appunto, ancora da esclusi dal consorzio sociale. Nicolò è sceso e cammina assorto nei suoi pensieri, tra cui ce n'è uno che preme. Sarà curiosità, ma vuole sapere il perché del volume della televisione alzato a palla. Si accosta al camminare ondulante di Marcello, che fa le righe con altri due. Che mi devi dire, Marcè? Senti, Nico, Marcello lo prende sotto braccio, saluta gli altri due e lo accompagna verso un angolo del rettangolo del passeggio. Si accendono una sigaretta e Marcello inizia a parlare. Una spiegazione c'è per ogni cosa, dice, ma a volte è meglio non conoscerle. A volte è meglio così. Meno cose si sanno, meno si rischia. A meno che, Nicolò, tu voglia partecipare alla vita dei carcerati combattivi e condividere quello che si fa qui dentro. Conoscere certe cose comporta delle responsabilità. Mi sono spiegato? Pensaci, se te la vuoi pigliare qualche responsabilità, fammi sapere. Marcello si interrompe, ma non smette di parlare, passa a un altro argomento e ricorda i suoi numerosi arresti. Non vuole mettere in difficoltà Nicolò e lasciargli il tempo per riflettere. Marcello racconta il trauma dell'arresto. Quanti ne ho avuti? Nemmeno ricordo quanti. Ricordo però che il momento dell'arresto è una cosa tremenda. L'hai provato anche tu, no? Lo è ancora di più quando non te l'aspetti. Io ero molto più giovane di te al primo arresto. Mi sono sentito immobilizzato, le mie attività precedenti le vedevo svanire. L'arresto cancellava tutto, ero confuso, non capivo perché le forze dell'ordine si muovevano con ritmi forsennati. Il sangue aveva smesso di scorrere, ero immobilizzato. Mi avevano rinchiuso nella camera di sicurezza di un commissariato a un centinaio di metri dal bar dove mi Mi ritrovavo coi miei amici, ma sentivo una lontananza enorme. Avevo un piccolo furgone, racconta Marcello, dove caricavo calcinacci e altro materiale prodotto dalle demolizioni di parti di fabbricati per ristrutturarli, lo andavo a gettare nelle discariche del circondario o nelle campagne. Il calcinaccio era molto richiesto dai contadini per la sua capacità di rendere asciutti e rassodare i sentieri fangosi di campagna. Mi hanno fermato mentre viaggiavo col furgone e mi hanno portato al commissariato. Lì dentro aspettavo che succedesse qualcosa, ricorda Marcello. Era consapevole che quello era un tempo passeggero, doveva passare, in un senso, la libertà o nell'altro la galera. Quando sono stato portato in carcere, continua Marcello, ho sentito la rottura tra la vita e la non vita. Il mondo in cui ero vissuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, scompariva. Il tarlo del quando vuoi continuiamo, che Marcello gli ha instillato, non smette di rodergli la testa e Nicolò ci riflette a lungo. Il tempo residuo del passeggio lo trascorre camminando su e giù da solo, rimuginando pensieri interrogativi. Voglio prendermela la responsabilità, oppure lascio stare. Ha imparato che il gergo carcerario chiama turisti quelli che in carcere, a prescindere dal tempo che ci stanno, lo trascorrono come se fossero in visita, senza voler conoscere nulla, senza collarsi alcuna responsabilità. Lui no. Tutto quello che si sono detti nel collettivo mentre discutevano sul carcere, dopo aver sentito testimonianze di chi in carcere c'era stato, adesso deve diventare pratica. Vuole continuare la discussione con Marcello e gli altri, vuole conoscere quelle parole e quei segreti che solo i carcerati che si chiamano resistenti o combattivi conoscono. Vuole dire a Marcello, con semplicità, che lui vuole prendersi tutte le responsabilità, senza problema per i costi da pagare. Lui ha sempre fatto così, per questo si trova in carcere. Thank you. Ecco, siamo diciamo all'ultimo intervento che faccio stasera su questo esclusi dal consorzio sociale, parole e azioni delle persone imprigionate di Salvatore Ricciardi. E bene o male la protesta che mettono in piedi questi detenuti va in porto, anche con qualche espediente, tipo un torneo di calcetto messo in piedi da, diciamo in botte sclop per poter permettere di incontrare anche i detenuti di una sezione, diciamo, con i quali altrimenti non ci sarebbe stata possibilità di interazione, e tutto il carcere riesce a consultarsi su questa proposta di fermata all'aria. La fermata all'aria, diciamo, viene messa in pratica, e appunto ognuno di questi protagonisti che vi avevo presentato ne paga diciamo le conseguenze. Chi appunto stava uscendo e avrà un'altra condanna, chi stava aspettando i domiciliari e gli saranno negati, chi prende la manganellata dalla guardia, eccetera. E appunto l'ultima lettura che faremo insieme parla appunto di questa, della sera prima della protesta, di tutte le preoccupazioni che vengono a galla, ma anche della, diciamo, possibilità di, cioè dell'attesa per la possibilità di essere protagonisti e di essere autenticamente, diciamo, autori delle proprie scelte. Che cos'è questo spazio dove siamo rinchiusi? Si domanda tra sé e sé Nicolò a voce alta. Questo spazio non contiene nulla di ciò che vorrei. Qui non c'è niente che ricorda le mie partenze per tragitti alla ricerca di qualcosa, né le mete, né le persone. Non c'è la mia storia. Qui non c'è il passato, non c'è il futuro, e il presente non ha spessore, è simile al nulla. Siamo rinchiusi in questa cella, prosegue Nicolò, ma stare qui non è abitare. Con la preparazione della protesta, questi spazi si stanno riempiendo di relazioni, qualcosa che non c'era prima. Una protesta la stiamo costruendo con le nostre mani e non è confrontabile con il nulla esistente. La protesta è qualcosa di vivo, ha uno spessore, stiamo costruendo momenti di vita vera, conclude. Bene, insomma, questo è quello che volevo leggervi, e anche perché non voglio, insomma, cioè anche togliere un po' così la curiosità di andare a leggere a ognuno, insomma, che sta ascoltando questo bel trattato, insieme a racconto, anche un trattato di vita reale sull'esperienza carceraria, anche sulle mettersi in gioco politicamente a tutte le età, insomma, indifferentemente dai giovani ai meno giovani ai diversamente giovani. E con questo davvero vi saluto e lascio, insomma, la linea alla regia e poi gli altri contributi che seguiranno, e vi saluto. Or wanted, or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like you have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you the human being are now obsolete. And there's nothing in hell will let you do about it. Soup is good food. Make a good meal. And going in the cold like a piece of trash. To leave, unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist. Your numbers diverge from our central computer, so we can read the facts and see you under the rug. See our chart, unemployment's going down. Quindi la rassegnazione è la morte e la rivolta invece è la vita, mi viene da dire. Così a commento del bel racconto di Salvatore Ricciardi, e anche come lo stesso concetto mi viene da esprimerlo relativamente alle lotte contro il Green Pass, contro l'obbligo vaccinale, contro lo stato di emergenza e contro la società del controllo e del tecnocontrollo e del biotecnocontrollo. E appunto sono giornate di mobilitazione, beh in realtà non solo in queste giornate, ma diciamo siccome si avvicina la data del 15 ottobre, data in cui potrebbe diventare obbligatorio il Green Pass in ogni luogo di lavoro, e appunto in queste giornate si moltiplicano le iniziative di protesta. E per ricordare questo vi leggo un volantino, un bel volantino fatto dai compagni di Lecco, che si intitola "Non lasciamo passare il lascia passare". Tra le più serie conseguenze dell'implementazione del Green Pass vi è la sua imposizione in ogni ambito lavorativo. Dal 15 ottobre potrebbe diventare impossibile lavorare senza il vaccino o un tampone ogni 2 giorni. Lo sfruttamento del ricatto lavorativo per spingere alla vaccinazione è tra l'altro reso possibile dalla creazione negli anni passati di un cospicuo serbatoio di lavoratori precari, che un tempo si sarebbero chiamati esercito industriale di riserva, pronti ora a prendere il posto di coloro che rifiutano il ricatto del Green Pass. Ancora una volta la gestione della pandemia si intreccia perfettamente con le dinamiche del sistema capitalista. Verrebbe da chiedersi dove siano ora le conquiste a cui le lotte operaie hanno portato in passato, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sulla propria salute. Ancora una volta i sindacati confederali, ma non solo, si piegano supinamente alla salvaguardia della produttività e al controllo dei lavoratori. Il fatto che il Green Pass rappresenti un'odiosa forma di controllo, non solo in ambito lavorativo, è sufficiente per opporvisi con tutte le proprie forze. Un certificato che limita la libertà di un individuo di spostarsi, partecipare a momenti di incontro, finanche di intessere relazioni sociali, dovrebbe preoccupare chiunque, a prescindere da quali anticorpi gli circolino nel sangue. Ugualmente preoccupante dovrebbe apparire la mole di dati che in questo modo vengono raccolti dallo Stato su condizione di salute, spostamenti, frequentazioni. Un ulteriore passo perfettamente inserito nei processi di digitalizzazione delle nostre vite, che non potrà che potenziare l'occhio del Grande Fratello. È anche evidente che tutte le difficoltà poste dal non avere un Green Pass a lunga scadenza rappresentano di fatto un potente strumento di ricatto verso chi non vuole vaccinarsi. Praticamente chi non vuole vaccinarsi è costretto a pagare per mantenere il posto di lavoro, se non può permettersi di abbandonare il posto di lavoro. Ne consegue che la certificazione, in quanto quasi obbligo di vaccinazione, costituisce un attacco diretto alla libertà di scelta di ogni individuo sul proprio corpo. Già di per sé imporre una cura universale non può che far riflettere, ma al di là delle posizioni personali sull'accettazione o meno del vaccino anti-Covid, la scelta del se e come curarsi o trattarsi per prevenire una possibile malattia pertiene ad ogni individuo e non può essere forzatamente limitata dai presunti bisogni della collettività. Infatti, questa sperimentazione globale di massa a cui stiamo assistendo cerca di far leva sul sentimento di altruismo verso l'altro, induce a vaccinarsi con la promessa di proteggere i più deboli. Gli stati più potenti hanno scelto di inoculare il vaccino come soluzione totale, abbandonando altre strade possibili, ma meno redditizie dal punto di vista sia economico che politico. Quindi da una parte si smantella sempre più velocemente il sistema sanitario di prossimità, dall'altro si offre la soluzione della pozione magica da assumere senza neanche conoscerne la reale efficacia. Tutto ciò è sostenuto dalla comunicazione di massa, così martellante e univoca da riuscire ad intaccare le menti di individui sempre più alienati e in preda al panico. Per questi motivi l'opposizione al Green Pass è innanzitutto politica, in quanto lotta che si oppone all'introduzione di un nuovo documento da esibire, all'ennesimo strumento di controllo e catalogazione a cui tutti siamo sottoposti. In quanto anarchici sappiamo bene che quanto sta accadendo non è poi così inverosimile nel sistema del governo attuale. La democrazia, e lo diciamo da oltre un secolo, è un sistema di potere, in quanto tale non può che favorire l'interesse di alcuni contro l'interesse di altri. Quindi l'attuale gestione della pandemia non ci appare come una dittatura sanitaria, bensì come un'ottima democrazia sanitaria. Mentre certi regimi autoritari avrebbero fatto ben altro per obbligare a vaccinarsi, l'attuale versione apparentemente soft, ma molto più pericolosa, ci vuole convincere a farlo, un po' con il bastone e un po' con la carota. Perché spingere un'altra persona giù da un dirupo quando puoi riuscire a convincerlo che è la scelta migliore per lui? Per non parlare degli strascichi che questa modalità lascerà, come l'abitudine al controllo, alla delazione, all'ingerenza nel privato altrui. Siamo convinti che ci siano altre possibilità di organizzare l'esistente per ottenere una reale libertà per tutti e tutte, e questa pandemia non ha fatto altro che rafforzare i nostri pensieri. Alcune settimane or sono, in seguito alla delazione di qualche zelante cittadino, due persone sono state fermate mentre affiggevano a Lecco manifesti che da un lato incitavano a lottare contro l'imposizione del Green Pass e il controllo che ne consegue, dall'altro ponevano dei legittimi dubbi sulla natura dei vaccini e gli interessi delle multinazionali farmaceutiche. In seguito a questo fermo sono state accusate di diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Ebbene, non possiamo che schierarci al fianco di chi lotta, mettendosi in gioco in prima persona ed esprimere loro la nostra totale solidarietà per diversi motivi. Perché il messaggio veicolato da quei manifesti non appare affatto falso e deve e può essere discusso. Perché il metodo dell'attacchinaggio negli spazi scelti, senza permessi e senza paranoie, ci appartiene. Perché infine non possiamo che gioire del fatto che tali notizie possano turbare l'ordine pubblico. I manifesti sui muri, la presenza in piazza, l'esprimere opinioni altre da ciò che vogliono far passare come verità assoluta, è un ottimo inizio. Come fare però ora a trovare quella capacità conflittuale da concretizzare per fermare questo mondo alla rovina? Ad ognuno ed ognuna l'arduo compito di inventarsi nuove strade da percorrere contro ogni dittatura, contro ogni democrazia sanitaria o meno, anarchici e anarchiche. Bene, sulle note di questo brano dei Dead Kennedys, da questo loro album datato 1985 che si chiamava Frankenchrist, ci salutiamo, cioè più che ci salutarci, prima anzi vi volevo ricordare i nostri contatti, comunque volevo ricordare che siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Jardins Magnetics e che è iniziata alle ore 20 e ora alle 21.30 termine. Stiamo trasmettendo qui da Udine dai 90 MHz di Radio Onde Furlane. Tra l'altro volevo ricordare che nei brani che durante gli interventi precedenti abbiamo ascoltato alcuni brani di una band inglese, anche quella non è una cosa voluta, comunque anche quell'album è datato 1985 e loro erano i Sacrilege. ed era il loro primo album che si chiamava Behind the Ruins of Madness. Bene, allora sotto abbiamo sempre i Dead Kennedys e volevo ricordare i contatti per scriverci, se attraverso la posta elettronica e la casella postale, cioè la casella della posta elettronica è liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org. questa era appunto la mail, la, insomma, la posta elettronica, mentre se volete scriverci tramite la vecchio metodo cartaceo, scrivete ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, 34 121 Trieste, ripeto Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, 34 121 Trieste. E inoltre, se volete andare a riascoltare questa trasmissione o anche le scorse precedenti a questa, andate su blog jardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto jardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì sempre dalle ore 20 alle 21.30 qui da Radio Onde Furlane, e vi lascio con questo ultimo brano del Berkeley. Bitter eyes.